Allora, io chiedo scusa perché sicuramente farò un po' la figura del Pinocchio, nel senso che, però, se qualcuno è in grado di farmi ragionare su sta cosa, gliene sarei veramente grato. Niente, io ne parlavo l'altro giorno anche con Luce, un po' di questa idea che ho, forse in fondo da sempre, però che sono riuscita a realizzare chiaramente soltanto di recente come pensiero che sento molto vero. E io penso che non esista un limite fisico tra la materia di cui io sono fatta e la materia che fa parte del mondo reale, del mondo fisico. E in questo senso qua io ritengo di essere semplicemente un insieme di molecole che adesso hanno questa struttura e questa esperienza, ma che di fatto derivano e torneranno nella struttura molecolare del divenire, cioè comunque dell'essere parte di tutto, ok? Questo non ha niente a che vedere con fede, con religione, è semplicemente un pensiero che mi è nato, credo come a tantissima altra gente, dal fatto di sentire come profondamente vero il fatto che la materia è un divenire, non si crea, non si distrugge, semplicemente è un divenire. Allora, in questo senso qua io sento una sorta di limite a capire da che materia. Ecco, siccome mi spiego meglio, siccome io quello che sento come profondamente vero è che la materia di cui io sono fatta oggi possiede in sé una memoria del sempre, no? Di questo divenire che è stato da sempre. Vorrei che qualcuno mi aiutasse a capire come questa intelligenza artificiale, come tutto quello di cui si è parlato questa sera, si interseca in questa logica, perché io lo sento come qualcosa che entra di anomalo, no? Capisco e mi affascina tantissimo, ma mi fa anche paura, e allora vorrei che qualcuno mi aiutasse a capire, se mi sono fatta capire io per prima, però. Io credo di sì. Ma la sta scrivendo? Chi vuole Io posso rispondere? rispondere, ma ci mancherebbe, non voglio togliere la parola a qualcun altro, non vorrei parlare solo io o monopolizzare, quindi poi mi diranno se c'è qualcun altro, Vai, Vito. sicuro non voglio andare a qualcun altro, beh, non voglio insomma sovrastare qualcun altro, al limite mi fermerete se. Ti Beh, posso la chiedere sensazione che. scusa con chi sto Certo. parlando perché io Vitek non Scheflo, capisco. Vitek Scheflo, Vitek Scheflo. Ok, grazie. Okay. Beh, diciamo. Ah, tu sei quello col mantello che mi spaventa sempre? Sì, esattamente, esattamente, esattamente. Ok. Diciamo che secondo me qui bisogna fare una distinzione netta. E adesso esco. L'inquisitore, è vero. Esco un attimino, diciamo, dal discorso della singolarità, cioè nel senso che qui stiamo andando proprio. Hai fatto una domanda, oserei dire, tra il filosofico barra epistemologico, cioè quelle che sono le domande base dell'essere umano e come noi conosciamo la realtà che ci circonda. E se da un punto di vista fisico hai ragionissima, nel senso io ricordo la meravigliosa lezione tenuta a Roma, all'Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Ingegneria, dal professor Mencuccini, fisico famosissimo, che ha scritto molto libro, in cui di solito, sai, cioè, molto bello, si fanno le prime lezioni, l'ultima lezione, di solito sono quasi delle lezioni magistrali, no? In cui il professore si sbizzarrisce e si stacca un attimino da quello che è il contenuto della normale lezione per toccare temi molto belli. E lui da buon fisico ha detto, signori, voi siete figli delle stelle, ma non in termini, come posso dire, Ma assolutamente semplicissimi. sì, ne sono convinta, assolutamente certo. Perfetto. Perché la materia, la materia stessa che compone la Proviene dal Terra e noi. pulviscolo, certo. Perfetto, ma avrai sicuramente sentito le mille teorie, ed è questo è vero, cioè nel senso, sicuramente all'interno delle stelle, quelle, le materie stesse che ci sono dell'universo compongono, e noi stessi quando moriremo, il nostro corpo, diciamo, si disintegrerà, cioè rientrerà in quello che è il circolo virtuoso o vizioso, dipende dal punto di vista, che è la natura stessa. Il problema è però che tu ti poni anche una domanda su un piano diverso, che è quello metafisico, e allora perdonami, esatto, questo è un problema, sì, di natura, cioè a quel punto la scienza si ferma, dovendosi fermare, non perché è ovvio, per sua stessa natura epistemologica, cioè di costruzione del pensiero scientifico, non può andare oltre, ti pone delle domande di tipo metafisico a cui si possono dare delle ipotesi, ma è ovvio che dal punto di vista metafisico esista la metafisica stessa, che è un argomento, come posso dire, scottante da questo punto di vista, perché se ti parli a me come persona, io sono cattolico, per cui ti dirò, ma vada bene, non ti sto facendo un discorso scientifico in questo istante, ti sto facendo un discorso metafisico, ti potrei dire, è ovvio, il tuo essere, la tua entità, non si perderà. Qualcuno, diciamo, ovviamente di altre religioni, ti daranno cose diverse, ma dal punto di vista proprio prettamente logico abbiamo tutti ragione, no, abbiamo, ma tutti, guarda, torto. Io forse mi sono spiegata male io, permettimi di fare questa precisazione, cioè io non riesco a capire, allora, siccome per me nella visione, appunto, in questa visione per molecole, non per forme o per sagome o per strutture, io non riesco a vedere un limite, ok? Quindi tra una forma e un'altra forma. Quello che non riesco però neanche a immaginarmi, siccome io ho un'intelligenza che ha bisogno del disegno per capire le cose, ok? Sono purtroppo fumettistica. Io non riesco a immaginarmi di che materia è fatta una cioè è materica quello di cui abbiamo parlato tutta questa sera, cioè l'intelligenza artificiale, questi cervelli che si formano quasi su strutture analoghe a quello biologico, no? E quindi, cioè, quindi forse capaci di imparare e darsi delle soluzioni. Cioè, qualcuno mi dice, mi dà un'idea di connessione tra quella forma di materia. Capite cosa voglio dire o mi sto incasinando da sola? Ma guarda, io ti manderei volentieri a Taigo, che sicuramente avrà una risposta essendo lui nella materia, ma io brevemente ti posso dire solo questo, che in realtà tantissimi singolaristi dicono che in realtà le agi non avranno bisogno di un corpo fisico. Potrebbero essere delle, i cosiddetti funzionalisti, no? Potrebbero essere delle funzioni matematiche che trovano poi il sostrato, il proprio strato fisico nel silicio, esatto, o magari, esatto, in un'altra sostanza che adesso è un computer quantistico, e quindi magari, se non sbaglio, dovrebbe essere, avevo sentito, un computer di diamanti, quindi praticamente, ma potrei dire una stupidaggine, quindi non voglio, cioè altri, magari altri materiali o altre cose, ma chi può dirlo, comunque sia, saranno sicuramente parti di qualche cosa, sicuramente, però non hanno, possono anche non avere una struttura umanoide.